Funtime Radio presenta Ludico Forum. Facciamo finta che inizia tutto qui. Ragazzi, benvenuti a questa live di Dietrologia. Ragazzi, questa non è una live sponsorizzata, ma ci serve, altrimenti non arriviamo. Esatto. Benvenuti carissimi amici a questa nuova live sul canale di Dietrologia Videoludica, appuntamento che ritroverete poi su Ludico Forum, ovviamente sul nostro podcast, in questa finale di stagione dove stiamo praticamente cercando un po' di portare a termine alcuni temi che ci erano rimasti un po' sul groppone. Vi ricordo infatti che domani sera, oltre a questa live con Puccio, che vedete già qua il caro amico Puccio, tra l'altro mi disturbava tantissimo quando sentivo tutto quell'eco, vabbè, comunque non ci voglio ripensare perché mi aveva creato un ictus nel frattempo. Domani sera sul canale di Pixel Deb insieme a Deborah ovviamente parleremo delle nostre top 10 della storia nostra, secondo il nostro punto di vista, i 10 videogiochi che abbiamo amato di più. E mercoledì sera faremo un'intervista a un autore di un videogioco italiano, un JRPG, insomma poi vi annunceremo tutto domani con più calma. Però ecco, ci tengo insomma a dire più che altro anche la live con Deborah domani, perché insomma è una cosa carina tutte queste conversazioni che facciamo con Deborah. E poi se lei mi autorizza, chiaramente lo ritroverete tutto sul nostro feed RSS sempre di Ludico Forum. Vi ricordo, importante ragazzi, che Runtime Radio ovviamente insomma ha sempre bisogno di voi e del vostro sostegno. Se potete, qualora potete e volete, insomma, dare un supporto al nostro progetto che continuerà e si sta già preparando la prossima stagione. Oggi ho fatto un grande lavoro. Quando chiudono le stagioni è bellissimo perché ho tutto l'archivio fatto di cartelle, cioè come un mucchio di roba sulla scrivania, e piano piano io come formichina comincio a mettere tutto a posto, no? E quindi anche i documenti e tutto quanto. Però detto questo, voglio anche ringraziare tutti coloro che veramente hanno contribuito durante questi periodi in maniera importante, devo dire, e ci hanno permesso di superare un momento di crisi che insomma, come sapete, l'abbiamo pubblicizzato più insomma diverse volte. E quindi grazie veramente a tutti quelli che hanno voluto bene a Runtime Radio, l'hanno dimostrato in maniera abbastanza fattiva. Detto questo, adesso io ringrazio Alex Raccuglia anche per il bellissimo logo, nuovo logo di Dietrologia Videoludica, che però tolgo perché invade un po' troppo lo spazio. Però su in alto vedete il QR code che è sempre attivo, se volete lo scannerizzate e date una mano a Runtime. Vedo che già forse ci dovrebbe essere qualcuno in chat, quindi sento. C'è Vincent, quindi attiviamo la chat qua, che ovviamente fino a che non scrivete, perché parte dal primo messaggio utile, non so perché, cioè se c'è già un messaggio scrivilo, no vabbè, comunque restream devi migliorare su queste cose, insomma, anche se ragazzi ho trovato un software che spacca le chiappe, insomma. Detto questo, siamo qui con Carmine Puccio Console. No, non è console. Console, giusto. Facciamo veramente dei grossi passi avanti in questa comunità radiofonica. Esatto, c'è Carmine Puccio Console, che è rinomato insomma ai più insomma nel team di Runtime, perché anche il suo podcast chiamato Snap, e c'è anche in orbita insomma un progetto che si chiama Snap Blog. Snapful. Esatto. Sì. Ma sai com'è? Quando c'hai diciamo queste problematiche tipo lavoro da privato oltre che da dipendente, figli, traslochi e altre mille disavventure, diventa anche, cioè tu le vorresti fare le cose, te le scrivi, fai gli Excel con gli appunti, poi improvvisamente qualcosa dentro di te muore. Vai un mese al mare, come è capitato a me, è stato bellissimo. Hai fatto bene. Ragazzi, ve lo dico con tutto il cuore, fatele le ferie ogni tanto, perché io ero tipo 2 anni che no. Io infatti quest'anno poca roba, quasi niente. Io l'anno scorso rischiavo di trasferirmi nelle Marche. Vero, grazie a Dio non è successo. Difatti facciamo la live sulla storia di Mario mentre io ero in un appartamento a Pesaro con mia moglie e i miei figli. È vero, ricordo, sì. Ma però se tutto è tornato alla normalità. Una casa più grande, più bella, più. Con più fibra, con delle belle finestre, vedo dietro di te, insomma, c'è una bella finestra. Sì. No, l'ho chiusa per evitarvi. Ora, se vuoi fare il serio, vuoi partecipare anche a altre live dove parleremo, che ne so, di Street Fighter, devi comprare un paio di luci RGB. Ce le ho. così da illuminare lo sfondo in maniera colorata, capito? Perché così insomma... No, ma ce li ho, vabbè, non ce li ho a portata di mano, ma ah, ok, vabbè, allora non li devi comprare, devi solo sistemare. Che te pare che c'è qualcosa che non c'hai, insomma, Buccio. Io sono una persona. Tu sei uno che sei un ciallo. Sei un ciallo. No, io sono come Doraemon, c'ho tipo la roba che la tiro fuori all'occorrenza dalla tasca ventrale. Tanto ricordiamo che nessun bambino viene estratto adenocromo durante queste dirette, che è importante. Si spera, perché... sono andati a dormire, insomma. Sì, io sento urli ogni tanto. Vabbè, quelli, anche mentre dormono. Ah, dici, vabbè, c'è sempre uno. E tra l'altro siamo in tema, perché il secondo nome di mia figlia è Zelda. Esatto. Si chiama Josephine Zelda Console. Abbiamo provato a dire che era il nome della moglie di Scott Fitzgerald, cosa tra l'altro vera, ma non ci crede nessuno quando propongo questa spiegazione del secondo nome di mia figlia, per motivi che è facile immaginare. E vabbè. Quindi questa sera parleremo di Zelda. Parleremo, non ma non senso, Zelda nella sua parabola. Esatto. Parleremo di Zelda perché è uscito un ultimo capitolo rivoluzionario, oserei dire. Ma in realtà no. Quello rivoluzionario era quello precedente. Mettiamola così. Allora, è stato Breath of the Wild quello che ha modificato completamente il tipo di gioco che è sempre stato Zelda. Perché è passato da essere Zelda, è sempre stato abbastanza guidato nelle missioni che dovevi affrontare. Ti servivano determinati oggetti per sbloccare determinati dungeon, che poi ti davano accesso ad altri dungeon per proseguire nella storia, quindi più o meno c'era una sorta di strada più o meno lineare che dovevi seguire per arrivare dall'inizio della storia fino alla fine. E Breath of the Wild è stato il primo gioco che questa cosa l'ha smontata completamente. In realtà c'è un precedente che passa sempre abbastanza in sordina, ma che probabilmente è stato l'esperimento con cui Nintendo ha detto vabbè, Zelda lo possiamo fare in un modo diverso, che è il gioco per 3DS che è A Link Between Worlds, che è più o meno il seguito di A Link to the Past, lo Zelda 3 del Super Nintendo, quello che poi insomma. Senti, io non voglio mortificare il tuo ego e la tua linea internet, però vai a saltelloni. Sei veramente a minchia, vado a saltelli. Ma è strano, eppure ciò. Ma poi di brutto poi, No, ma sta perché su YouTube sembra andare tutto bene, perché sto guardando la diretta sull'altro monitor. Ma provo a chiuderla, che ti devo rimanere. Ma è l'audio, il problema è l'audio, non è il... Ma non vorrei fosse il microfono della... Ecco, sei tornato normale. Ok, a posto. Ci sono i capelli che fanno... fanno contatto. Con il microfono, può essere. Stavo dicendo... In realtà Nintendo, prima di liberare la mappa di Zelda e di permettere al giocatore di fare un po' il cazzo che gli pareva, hanno tentato questo esperimento sul 3DS che è stato A Link Between Worlds, dove i dungeon non andavano affrontati in un ordine prestabilito, ma c'era una scorciatoia, c'era un negozio dove potevi comprare oggetti temporaneamente, potevi prenderli in affitto invece che conquistarli nei vari dungeon, che ti permettevano di cambiare l'ordine in cui dovevi affrontare i vari nemici per poi arrivare alla sfida finale con il boss. Probabilmente l'esperimento è andato talmente bene, il gioco gli è venuto così bene, che a Nintendo hanno deciso di andare all in. Quindi lo Zelda successivo, quello che poi è uscito contemporaneamente per Wii U e per Switch, ma ritengo abbia venduto molto di più per Switch, è del tutto e completamente open world, ed è stato Breath of the Wild. Breath of the Wild, superata la parte iniziale che fa da tutorial, niente ti impediva, con il personaggio in mutande e un ramo di albero, di andare ad affrontare il boss finale, probabilmente morendo, anche se c'è gente che è riuscita ad affrontare il boss finale pure in mutande. Mutande e con il rametto dell'albero, però aveva questo livello di libertà. Tu, nel momento in cui uscivi dalla zona iniziale, tutto quello che vedevi sulla mappa era raggiungibile a fatica, con grosso sforzo, con molta inventiva, però potevi fare letteralmente quello che ti pareva. Potevi andare direttamente nel castello di Ganon, affrontarlo e uscirne più o meno vivo, più o meno morto. Questa lezione è andata talmente bene, perché diciamo Breath of the Wild ha fatto epoca come videogioco, che Nintendo ha deciso di rilanciare di nuovo. Quindi si è presa 6 anni di tempo, ha preso quella che era l'ossatura di Breath of the Wild e ha tirato fuori Tears of the Kingdom, che è effettivamente il seguito diretto di Breath of the Wild. Inizia più o meno subito dopo la fine di Breath of the Wild. Inizia in maniera abbastanza drammatica, quando invece il suo predecessore iniziava con, diciamo, la partita già giocata e tu che dovevi porre rimedio a una serie di danni che erano capitati. Qui inizia con un evento che vivi in prima persona, che ti separano da Zelda, tu finisci privo di un braccio, ma vabbè, non voglio spoilerare granché del gioco, non è la trama. Vabbè, sei all'inizio, però, cioè, nel senso, magari, i primi 5 minuti. Magari è anche nel trailer. Sì, credo che si facessero vedere tutta la scena. Tra l'altro, premetto che il video che stiamo mettendo, giusto per farci un po' compagnia, l'ho rubato al canale di quel tale Ale, al quale insomma chiedo scusa, poi lo citeremo. Un bel gameplay, me lo sono guardato anch'io dopo averlo finito almeno la prima volta il gioco. Che cosa è successo? La parte più bella di Breath of the Wild era a parte la libertà che avevi nel poter esplorare la mappa, nel poter affrontare un gioco un po' come ti pareva, era il fatto che a Link erano stati dati dei poteri che gli permettevano di interagire con gli oggetti. Quindi per esempio potevi arrestare il tempo e fermare un oggetto a mezz'aria, potevi congelarlo nel tempo, caricarlo di energia statica colpendolo e nel momento in cui lo liberavi l'oggetto decollava. C'erano una serie di varie funzioni che ti permettevano di interagire con gli oggetti e di fare in modo che gli oggetti assumessero funzioni che prima non potevano svolgere, non potevano avere. Anche stavolta con Tears of the Kingdom hanno preso questo concetto e l'hanno ampliato. Se prima tu potevi lavorare con gli oggetti, facendo interagire gli oggetti con l'ambiente, questa volta tu puoi mischiare gli oggetti, puoi unire le varie caratteristiche degli oggetti che trovi e con i poteri che ti vengono dati all'inizio del gioco letteralmente costruire un po' il cavolo che ti pare. Mo' se andate su YouTube o se vi fate un giro io li ho visti più su TikTok, onestamente, c'è gente che è riuscita a costruire delle cose incredibili tipo Gundam, è riuscita a costruire dei carri armati in grado di dare la caccia in automatico agli avversari e di andarli a massacrare con le fiammate e con i laser fino ad abbatterli mentre voi siete comodamente seduti e vi godete la scena, gente che ha costruito motovolanti con cui poi era possibile attraversare tutta la mappa senza rischiare di fare incontri sgradevoli. Sì, ho visto che ce ne stanno diversi di queste cose, insomma, ma poi è tipo Zelda. Zelda che incontra, a parte ho visto delle cose pure abbastanza oscene, diciamo. però vabbè, quello si sa, no? Quando tu dai la possibilità all'utente di essere creativo, insomma, c'è sempre qualcuno che tira. Qual è il problema? Che gli hanno data troppa, secondo me. Che poi dire qualcuno che tira fuori la ceppa di cazzo, c'è sempre, insomma. Diciamo, ma quello, tipo 10 minuti dopo che è uscito il gioco, c'erano le prime ceppe di cazzo fiammeggianti su TikTok. Credo che una delle prime cose che sia stato costruito era una specie di omino stecco con però il pisello e la possibilità che faceva le fiamme, sì l'ho visto. È stata tipo la prima cosa che è venuta fuori appena uscito il gioco. Infatti credo che molte delle fortune che ha avuto Nintendo con questo gioco, al di là della qualità del titolo che è eccezionale, pur con dei difetti che magari vedremo dopo, uno dei bonus che ha avuto Nintendo è che questo gioco, per le caratteristiche che ha, è andato immediatamente virale sui social, diciamo per la gente più giovane, tipo appunto TikTok. Proprio non potevi fare a meno di aprire l'applicazione e trovare decine di video con gente che aveva costruito roba più o meno divertente o più o meno ingegnosa. C'è gente che ha avuto milioni e milioni di visualizzazioni perché per esempio spiegava come costruire l'autocarro armato, possiamo tradurlo così. In pratica, mischiando una serie di elementi era possibile, è ancora possibile nonostante la patch, costruire un affarino piccolissimo che però ha i laser e che va lui a dare la caccia al posto tuo ai nemici sulla mappa. Tu devi stare comunque entro una certa area, devi mantenerlo almeno in linea di vista e purtroppo la sproporzione tra il potere di fuoco di questo oggetto e la maggior parte dei nemici sulla mappa era tale che letteralmente ti puliva la strada e tu dovevi semplicemente camminare dietro. Diventava un walking simulator praticamente. Sì. Diciamo che uno ma, dei problemi... ma l'esperienza chi la prendeva? No, non c'è esperienza. Non c'è esperienza. Non è un gioco di ruolo occidentale, quindi tu non vedi, non hai l'XP. Difatti una delle modifiche che avevano fatto in Breath of the Wild e che hanno mantenuto in Tears of the Kingdom è il fatto che tu non c'hai più i dungeon alla Zelda enormi, lunghissimi e che alla fine ti sbloccano un boss e che ti permettono di raccogliere cuori, quindi di aumentare la tua salute, o stamina, quindi la resistenza agli sforzi che fai. Dal suo predecessore in poi tu hai tanti templi sparsi all'interno della mappa che puoi visitare, ognuno ha un compito da portare a termine che generalmente si risolve combinando i poteri che hai e le abilità che hai, pochissimi si risolvono combattendo, ognuno di questi ti dà un frammento di cuore, ogni volta che tu ne raccogli 4 di questi frammenti puoi andare da una statua e decidere se vuoi un po' di stamina in più o un po' di salute in più. Questa cosa hanno deciso di mantenerla nonostante i puristi di Zelda faccio un po' inorridire. Io personalmente preferisco questo sistema a quello, insomma, un po' più age, un po' più datato dei dungeon giganti dove devi raccogliere i pezzettini di cuore, che francamente dopo un po', soprattutto i dungeon acquatici, diventavano snervanti. Questo invece è, diciamo, un sistema un po' più smart di farti potenziare il personaggio. Inoltre il fatto che tu possa decidere se vuoi stamina o cuori ti permette di un minimo customizzarti, tra molte virgolette, il personaggio un po' come vuoi tu, cioè puoi avere il personaggio che è più resistente ai danni o quello che può correre più a lungo o arrampicarsi più a lungo. Le uniche possibilità di customizzazione che hai, come nel gioco precedente, dipendono dalle armature, dai set armatura che riesci a raccogliere, che ti danno abilità speciali o resistenze assolute a determinati tipi di danni. Come in ogni Zelda, cioè le varie sottoquest delle fate che ti potenziano le armature che riesci a raccogliere. Questa volta, devo dire, per sbloccare le fate, a differenza dei giochi precedenti, ti devi impegnare un po' di più, perché ci sono delle vere e proprie sottoquest a carattere musicale, devi risolvere per sbloccarle tutte e quattro e quindi avere tutti i potenziamenti possibili per le varie armature. Però ripeto, per quella che è stata l'idea di base di questo gioco, l'idea che tu ti debba customizzare il personaggio, che tu debba cercare le armature, sì, è bella, cioè resta in linea con tutti gli Zelda precedenti, ma non è più il focus principale. Come nello Zelda precedente era come tu facevi interagire gli oggetti con l'ambiente, mo il focus è diventato come tu riesci ad unire diversi tipi di oggetti e determinati tipi di effetti per ottenere risultati che ti portano dove sembra non sia possibile andare. Il problema di base che ha generato questa meccanica è che ha lasciato un livello di libertà in ambito, diciamo così, di costruzione agli utenti, che il gioco è possibile romperlo in maniera abbastanza facile, un po' perché le meccaniche stesse, come ti dicevo, te lo permettono, un po' perché dal momento del lancio fino, diciamo, alla data date recenti, credo siano stati volutamente, per quanto non ce ne sia la prova assoluta, lasciati attivi dei bug che permettono di moltiplicare gli oggetti che trovi all'interno del gioco. Quindi, se il problema che hai quando costruisci i robot giganti, le astronavi, i cacciabombardieri, è che comunque queste cose hanno bisogno di una batteria che tu devi potenziare facendo determinate quest e raccogliendo determinati oggetti, che sono molto lunghe, tediose, ti porterebbero via decine di ore, molti giocatori hanno trovato dei glitch che permettevano di moltiplicare gli oggetti che tu avevi nell'inventario. Tipo, se ti servivano i diamanti, bastava raccoglierne uno, fare un salto con il paracadute, fare in modo che Link avesse l'oggetto in mano e lo facesse cadere, quando poi atterrando lo raccoglievi, invece che uno te ne trovavi due. Il glitch della moltiplicazione. Beh, sono cose che succedono pure su Minecraft, no? Assolutamente, ma su Minecraft le correggono subito. Nintendo, le prime settimane si è presa un po' comoda nel pecciare questo tipo di errori, un po' perché permettevano alla gente di avere risultati molto particolari che poi finivano su internet e aumentavano l'hype del gioco, poi li hanno corretti pian piano con molta calma col passare del tempo. Il mio personale parere, ma ripeto non ho la prova provata di questo, è che tutti i vari glitch che sono venuti fuori, sempre più complicati ma che comunque c'erano per moltiplicare gli oggetti, siano stati o comunicati o fatti trapelare volutamente, perché poi permettevano ai giocatori di saltare le parti noiose di farming degli oggetti e delle risorse, e permettevano poi di realizzare queste opere di alta ingegneria che, una volta finite su internet, aumentavano l'engagement del gioco. Credo che Tears of the Kingdom sia il gioco che ha venduto di più di Nintendo su Switch subito dopo Mario Kart 8, se ho capito, ed è in commercio da molto meno tempo. Ma in assoluto o quest'anno, tu dici? Aspetta che ti dico, perché avevo trovato una chart che magari possiamo linkare. Sales chart, ecco. Allora, qui ci sono le vendite di Tears of the Kingdom, le sto mettendo in chat, metto su un secondo. Stavo dicendo, ci sono le vendite di Tears of the Kingdom, ma un paio di settimane fa, paragonate a quelle di altri giochi, sempre AAA, che sono usciti nel corso di quest'anno, e diciamo se li è serenamente stramangiati tutti quanti. Pare abbia venduto tranquillamente più di FIFA 2023, che... Ma sempre su Switch, dici? No, in totale. Addirittura. Più copie di Tears of the Kingdom che di FIFA 2023 in giro. Calcolando sia le vendite digital che le vendite su... Ma a questo punto la domanda, come te lo spieghi tutto questo successo? Perché io devo dire... Ti ripeto... Allora, a parte che voi sapete in generale che io non... non ho mai, ma non è che non sono fan o odio o roba del genere, proprio non ho mai trovato un legame, proprio l'appeal estetico e quello che anche ludico, insomma, con le cose Nintendo, non ce l'ho mai avuto. Non è una questione di loro sono bravi, io sono stupido o il contrario. Il problema è che quelle poche volte che ci ho avuto un rapporto con Zelda, e tra l'altro non l'ho mai approfondito, quindi cioè, infatti quando pure su Radio Anziano, no, mi prendono in giro perché ancora non ho capito chi è Zelda, chi è Link, roba del genere, no? Però ecco, quello che mi domando, le domande che te faccio sono due. Uno, ma essendoci poi in questo capitolo tutta questa cosa del crafting, della costruzione delle cose, roba del genere, cioè Zelda è un fantasy o non sai fare? È la prima cosa. E la seconda cosa è, come ti spieghi il successo in generale, e poi in particolare di questo capitolo, cioè in generale della saga e in particolare di questo capitolo? Allora, partiamo dalla prima domanda. Zelda, cioè elementi sci-fi da Skyward Sword, dove vengono proprio fatti vedere dispositivi tecnologici, ci sono ologrammi, intelligenze artificiali, chiamate in un'altra maniera, ma alla fine quello sono. È un po' spoiler per chi non ha letto o visto la serie TV, è un po' come Shannara, no? Che alla fine scopri che Shannara è il lontano futuro della Terra, e quello che stai vedendo, cioè, ci sono comunque elementi che fanno riferimento alla tecnologia, alla scienza, che vengono scoperti. Sì, è alla base della storia, tutta la saga. Sì. Esatto. Shannara ti sembra un mondo fantasy, in realtà è il lontano futuro, no? E Zelda, questi elementi. Ovviamente nei libri è reso meglio rispetto alla serie TV, questo. Viene spiegato con più garbo, sì, nei libri. Più... La serie TV a un certo punto attraversano una città con i grattacieli. Esatto, sì. Oppure una macchina distrutta, che poi voglio dire dopo migliaia di anni, no? Cioè, nel senso, comunque, vabbè, dai. Cioè, la serie TV di Zelda. Allora, io l'ho guardata la serie TV di Shannara, ho visto tutte e due le stagioni, perché sono innamorato di Shannara, ma la serie TV è oggettivamente una merda, cioè nel senso, sì, bisogna dirlo, insomma. C'è Gimli però, che è la cosa più divertente, c'è l'attore che fa Gimli. Allora, poi perché no, in realtà non è piaciuta neanche a me, ma io non sono neanche un grande fan di Shannara. A me di Terry Brooks piace moltissimo la serie di Landover, sì, che, diciamo, è il figlio del dio minore nell'immaginario di Terry Brooks, però vabbè. Sì, che poi tra l'altro è proprio un tipo, cioè è tutto un altro tipo di fantasy. Sì, completamente. Cioè concettualmente proprio, cioè mondo contemporaneo. Sì, sì, ma anche la mitologia, la mitologia fantasy è completamente diversa, cioè nel senso forse anche più elaborata rispetto a quello del, allora, la spada di Shannara. Le persone come me l'hanno amata perché magari è stato il primo libro che tu hai letto, da lì in poi si era andata a ruota, no? Il primo libro fantasy. Poi dopo scopri Il Signore degli Anelli e dici un po' diverso. No, dici vabbè, questo insomma cioè, ha preso un po' abbastanza a piene mani, no? Infatti la critica maggiore che gli si è fatta a Terry Brooks è il fatto che lui alla fine ha modernizzato e un po' scopiazzato il Signore degli Anelli. Ci sta, insomma, anche nel modo in cui... Ma quello è il viaggio dell'eroe, l'eroe che va dal punto A al punto B per fare qualcosa. Raccogliere una spada, distruggere un anello, cambia poco formalmente, però alla fine quello. E invece all'interno di Zelda, Zelda è nato come fantasy puro, perché il primo Zelda che vediamo, che è quello per Nintendo 8-bit, infatti io questo mi ricordo, che ti fa pensare alla tecnologia. Poi Zelda è andato avanti nel corso del tempo, è rimasto puramente fantasy fino al Nintendo 64 più o meno. Poi hanno cominciato ad apparire degli elementi strani, tipo, senza arrivare al top che è stato Skyward Sword, in Wind Waker capisci che c'è stata, ti fa capire che ci sono state delle civiltà precedenti a quella a cui tu appartieni, che avevano risorse tecnologiche, ma diciamo di livello più basso, tipo delle navi a motore, che sono tutte a vela, che col tempo sono andate perse, no? Però sono lì perché tu ne vedi relitti, ne senti parlare, ci sono, sono leggende che vengono raccontate dai marinai, di aver visto una nave che va a vapore invece che a vela, o che è circondata dalla nebbia, che in realtà è semplicemente sono i fumi di scarico. E invece a un certo punto hanno deciso, vabbè, c'è un problema di fondo, ve lo spiego facendovi vedere un libro, no? Allora, questo l'ha fatto pubblicare Nintendo negli Stati Uniti da Dark Horse, si chiama Hyrule Historia. Ok, Zelda originariamente doveva essere una serie di capitoli scollegati l'uno dall'altro, un po' come Final Fantasy, no? Ogni Final Fantasy è un mondo a sé che ha degli elementi ricorrenti che possono essere i Kokobo, Bahamut, Ultima. Sì, di solito le evocazioni, le magie e gli oggetti, fondamentalmente. Esatto, alla fine i nomi degli oggetti. Però ognuno è un universo a sé, non sono collegati tra loro, tranne quelli che sono i seguiti diretti, tipo XX2, queste cose così. Final Fantasy e Crisis, Final Fantasy 7 e Crisis Core, insomma, tutti questi. Sì, c'è anche Final Fantasy Tactics, che credo sia ambientato nel mondo del 12, è stato Final Fantasy Tactics, anche se puoi trovare Claude per motivi di multiverso Final Fantasy Tactics. A un certo punto però questa cosa a Nintendo non si è capito bene per quale motivo, non è andata più bene, e hanno deciso che in realtà no, c'è una cronologia all'interno delle storie, viene spiegata, se avete sto libro sta a pagina 68, proprio te lo dice la cronologia, la faccio vedere per come si può, la cronologia degli eventi di Hyrule. Praticamente vengono presi tutti i giochi usciti fino a quel momento l'unico che non era uscito era Breath of the Wild, non era uscita la Switch, e viene dato un ordine cronologico e viene spiegato cosa succede, no? E come gli eventi di uno poi vanno a influenzare quelli successivi. La prima cosa che viene raccontata è Skyward Sword, che è il primo Zelda, è quello che da un punto di vista cronologico si pone per primo. Quindi che cosa succede? Che si viene spiegata che cos'è la Triforza, quale pezzo della Triforza è rappresentato da ogni personaggio, da dove viene la Triforza. Quindi ci sono tutte queste spiegazioni più o meno tecniche, e poi viene spiegato che il cattivo che batte alla fine, che è Ganon, alla fine maledice Link e Zelda in una specie di ciclo continuo di morte e resurrezione, con una differenza: il cattivo tornerà sempre e sarà sempre lui, Ganon è sempre lo stesso Ganon dall'inizio, Zelda rinasce attraverso la sua linea di sangue, cioè ogni tot generazione nasce una Zelda che è discendente della Zelda originale, Link, l'eroe, invece è un ruolo. Non è necessario che discenda da un eroe precedente, non c'è una linea di sangue. Semplicemente la Triforza del Valore ogni tanto trova una persona che può incarnarne le virtù e diventa l'eroe di quella. Quindi come Ultima è un avatar praticamente. Sì, è un avatar. Link alla fine è un avatar. Con la differenza, però è sempre uguale. L'avatar sei tu. Sì, però l'avatar. Dico, però è sempre uguale. No. E questa è la novità che sta in Tears of the Kingdom, perché la persona che fa le veci di Link nella storia che ti viene raccontata, non quella che vivi, non è un'Ilia come Link, ma fa parte di un'altra specie, sono quella specie di caproni con le orecchie che avete visto all'inizio, e quindi ci sono state interazioni nella linea temporale di Zelda in cui non hanno avuto l'aspetto di elfi che siamo abituati a vedere, quindi probabilmente ce ne sono state decine di migliaia, non è chiaro quante volte la storia si è ripetuta all'interno di Hyrule. Sappiamo soltanto le versioni che ci sono state raccontate finora. Ancora, per esempio, non si sa Breath of the Wild e Tears of the Kingdom all'interno di questa linea temporale dove siano, in quale linea temporale si svolgano, dove si collocano cronologicamente. Se girate su internet troverete varie teorie. Una, quella prevalente, è che si svolga dopo Wind Waker, quello per GameCube. C'è tutta una spiegazione che mi sembra abbastanza logica, però insomma, la conferma ufficiale a dove si collochino questi due giochi non c'è. È stata data, anche perché, senza spoilerare niente della trama, l'avventura che viviamo noi in realtà serve a correggere una serie di eventi che sono capitati migliaia di anni prima e che riguardano sempre una delle interazioni Link-Zelda-Ganon, quindi ne vengono raccontate non una ma due. La nostra è quella che ti viene raccontata attraverso i flashback, che in questo gioco la presenza dei flashback è gigantesca, tre quarti della trama viene spiegata attraverso eventi raccontati da altri o che tu rivivi attraverso le lacrime del drago, che è un elemento involontariamente sci-fi, perché in realtà le lacrime del drago sono come degli hard disk liquidi che contengono dei ricordi, e Link toccandoli accede a questo tipo di ricordi. Sono una sorta di biotecnologia, viene spiegata più o meno così. Anche la spada di Link, quella che stiamo vedendo adesso, se prendi Skyward Sword e ne scopri l'origine, c'ha più a che vedere con la spada di Luke Skywalker che con Excalibur come origine, per capirci. Comunque la coesistenza di elementi fantasy e fantascientifici all'interno dei giochi giapponesi non è, insomma, è stato... No, non è così strano, certo. Fantasy Star, cioè... Però a volte distinguono bene, no? Per esempio pure sulla saga di Final Fantasy, sì. C'è il fantasy puro e poi c'è il fantasy misto con la tecnologia, poi c'è, ad esempio, se tu prendi l'otto, cioè sì, c'è la tecnologia, è un mondo moderno, però poi alla fine c'è la magia, insomma, quindi... Ci sono le streghe, ma anche il 6 che è, diciamo, un po' steampunk. Bravo, il 6, sì. C'hai le navi volanti, c'hai le Magi Armor, cioè quello è stato il salto verso. Venendo però alla seconda domanda che mi hai fatto, perché c'ha tutto questo successo Zelda? Allora, Zelda... Dove lo prende tutto sto carisma? Allora, diciamo che Zelda, fino a Breath of the Wild, tutto questo successo commerciale in realtà non è mai stato... No? È sempre stata la serie più impegnativa probabilmente per Nintendo da produrre, quella che sicuramente generava degli utili perché ha una fanbase molto salda, ma come ti posso dire, è sempre stata un po' come per i fumetti Tex. No? Tex campa e vende bene perché c'ha un nucleo di appassionati. Sergio Bonelli diceva, buonanima, che dipinge anno per anno perché semplicemente muoiono per motivi anagrafici. Però ha un nucleo di persone che lo segue con attenzione, compra tutti i giochi che escono e quindi riesce a essere profittevole. Breath of the Wild e ora Tears of the Kingdom hanno vissuto in un mondo diverso rispetto ai predecessori, quello dove ci sono stati i social. Se tu dai nel mondo attuale, con gli strumenti che abbiamo ora, a dei ragazzi la possibilità di fare un po' il cazzo che gli pare, per capirci, come può avvenire in Minecraft o giochi simili. Certo. E queste possibilità le mette all'interno di un gioco più curato, con una trama scritta bene, con dei personaggi che hanno una storia, il carisma, quello che vuoi. E questi giochi improvvisamente diventano virali, vanno su YouTube, vanno su TikTok, diventano oggetto di dirette su Twitch, c'è gente che si mette e fa gli esperimenti più folli. Questa cosa comincia a fare engagement e il gioco comincia a vendere di più, semplicemente perché la gente dice, cazzo bello, perché non l'ho visto fino ad adesso? Penso sia andata in questo caso più o meno così. Sì, poi diciamo che più passa il tempo, più c'è l'enfasi verso il retro gaming, verso certi marchi, roba del genere, e più ovviamente si enfatizza, diciamo così, la mitologia verso alcune figure, magari tanta gente magari manco le conosceva, no? Cioè, c'è pure questo, secondo me. Però quello che dici è interessante, diciamo che mi è abbastata come spiegazione, anche perché comunque se tu dici c'è stato a un certo punto un salto, deve essere portato da qualcosa, insomma. È stato sicuramente, insomma, sono esteticamente più gradevoli da vedere rispetto ai predecessori di questi, anche se io continuo a dire che giochi tipo Wind Waker, che avevano una grafica... Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma questo mi sa che è il primo Zelda in assoluto col doppiaggio in italiano. No. Wind Waker ce l'aveva il doppiaggio in italiano. C'è un problema. Link nei videogiochi un protagonista muto, sì. non parla. Che è tipico in tanti giochi giapponesi di questo tipo, insomma. E gli altri personaggi che tu incontri, con pochissime eccezioni, quando parlano una lingua immaginaria che non veniva doppiata. Ok, quindi tu vedevi i sottotitoli in cui c'erano le frasi che venivano pronunciate dai personaggi, certo. Ma non li sentivi. Anche quelli usciti, tipo quello per GameCube, c'erano i giochi per GameCube doppiati in italiano. A maggior ragione ci sono stati su Wii U. Però i personaggi di Zelda non parlavano prima di Breath of the Wild, quasi nessuno, una lingua conoscibile. Quando però in questi due giochi sono state inserite queste cinematiche molto lunghe, che sono comunque necessarie per spiegarti la trama, hanno pensato bene che far parlare la gente in un linguaggio sconosciuto con i sottotitoli non andava bene. Quindi hanno iniziato a doppiare perlomeno le cinematiche. È andata bene, quindi se le sono fatte in tutte le lingue possibili e immaginabili, compreso l'italiano, che non era una cosa scontata all'inizio, perché all'inizio il doppiaggio in italiano non era indicato tra quelli disponibili al day one. È stata, diciamo, una sorpresa tra ampie virgolette, cioè è stato detto soltanto poche settimane prima che ci sarebbe stato il doppiaggio in italiano delle cinematiche. Probabilmente questo tipo di doppiaggio costa un po' di meno perché non è doppiato tutto il gioco, ma solo le scene di intermezzo, quindi poi alla fine, diciamo, il ritorno economico che hanno è giustificato. A differenza di Final Fantasy XVI, che non solo è il primo e per ora unico Final Fantasy doppiato in italiano, doppiato della Madonna, perché bisogna dire anche doppiato della Madonna, e però voglio dire è un esempio unico, perché una quantità di dialoghi così col doppiaggio italiano non esiste al mondo. Cioè, di solito comunque i giochi venivano doppiati in italiano quando i dialoghi erano contenuti in una presenza standard, e di solito i giochi comunque che duravano decine di ore era difficile che li doppiavano, no? Se tu prendi cioè anche, cioè nel senso, ecco, tipo Dragon Age, no, Inquisition, se tu ci pensi, cioè alla fine comunque, essendo un gioco di ruolo molto più vasto rispetto a Mass Effect, c'aveva senso che Mass Effect veniva doppiato in italiano e, non, e c'aveva senso che magari Dragon Age non veniva doppiato in italiano, non per ma soltanto sottotitolato, soltanto sottotitolato. Però la quantità di dialoghi e di scene, di sequenze, di cinematiche che c'è stato su Final Fantasy XVI hanno fatto un lavoro della Madonna. Io non so quanto gli è costata sta cosa, perché poi tra l'altro su un gioco che probabilmente loro hanno provato, come dice, vediamo come va e poi casomai li doppieremo anche prossimi. Sul gioco probabilmente sbagliato, perché a quanto ho capito poi alla fine il gioco insomma c'ha degli oggettivi limiti, però la storia, le cinematiche, il doppiaggio italiano è qualcosa di incredibile, hanno fatto un lavoro della Madonna proprio, cioè. Senti, questo è il primo Final Fantasy che io non ho comprato al day one, è dal 6 credo per Super Nintendo, compresi i vari spin-off, per un motivo banale, perché quando ho cominciato a vedere i trailer e i gameplay di che aveva fatto, quando ho giocato io per primo la beta, mi sono trovato davanti a un prodotto che era Final Fantasy in tutto, nella, diciamo, nell'estetica, nelle razze, negli elementi caratteristici, in tutto tranne che nel gioco. Cioè mi sono trovato un gioco, un action RPG tra virgolette, bello, tra l'altro anche apprezzabile sotto tutti i punti di vista, ma che non era quello che mi stavo aspettando io. È un problema mio, non del gioco. Cioè io capisco che Square abbia bisogno di prendere quel brand che c'ha un peso specifico abbastanza importante. Ma più che altro dicono è molto semplice, cioè è facile proprio, come cioè tutta la parte action non è così complicata, no? Non so se è un problema di settaggi di difficoltà che magari ha standard e poi magari se lo alzi peggiora, no, non ho idea. Io ho visto veramente gente che si limita a buttare per terra l'avversario e infierire, cioè sembra che il gioco si possa... E di solito è colpisci, schiva, schiva, insomma fondamentalmente. Il problema è che io mi sono trovato davanti a un gioco che non mi aspettavo, cioè non pensavo fosse più God of War. Che Final Fantasy, vabbè, ma oramai la deriva è da parecchio che c'è, nel senso. Sì, forse dal 12, però dal 12, sì. Qualcuno. Da 12 che è iniziato a non essere. L'ho guardato, gli ho detto: vabbè, bello, aspetto che finiscano il remake di Final Fantasy VII e mi compro quello. Che anche quello, voglio dire, non è esattamente quello che mi aspettavo io quando è uscito. Però, da quello che, perché mi sono visto i gameplay, dal punto di vista della trama, è scritto anche meglio di altri capitoli della serie che a me sono piaciuti. Beh, ci ha avuto più possibilità di approfondire, cioè nel senso, comunque decisamente la storia è iper articolata, cioè. Poi ho sentito questo doppiaggio recitato molto bene, la paura, quindi, cioè veramente il lavoro della Madonna, molto azzeccate, sì. Cioè, visto anche queste scene molto forti, tipo di gente che decapita i Cocobo, che a me mi è venuto tipo oddio quando l'ho visto. Sì, diciamo che è un po' Final Fantasy incontra il Trono di Spade, cioè una cosa un po' particolare, sì, no? Sì. Devo dire che per la mitologia di Final Fantasy, per quanto voglio dico, sono sempre storie drammatiche, però mai trucule, capito? Cioè nel senso, mai violente fino a se stesse, capito? Cioè nel senso, invece sì, sto capitolo è abbastanza oscuro, cioè sempre... Sì, è tetro parecchio. E qui c'è un problema che è mio personale, cioè che a me i fantasy in generale, grim and gritty, tipo il Trono di Spade, tipo, hanno cominciato a rompermi il cazzo, nel senso che continuo a leggere quelli che mi consigliano con molto piacere, per carità di Dio, però... Però preferisci Zelda? No, penso che siamo arrivati, come in ogni genere. Vabbè, no? Sì, certo. Se arriva al punto di saturazione. Poi c'è l'abuso, cioè, certo. Dopo il Trono di Spade i fantasy sono diventati prevalentemente così. Mo, citando una roba che ho vissuto in prima persona, qualche lucca fa è venuto ospite John Abercrombie, che è autore di una serie di libri fantasy molto belli ambientati nel mondo della prima legge, che ci hanno molto a che spartire col Trono di Spade: tradimenti, incesti, roba simile, gente torturata con i denti cavati per farla parlare, insomma scene abbastanza truculente. Attenzione a Baldur's Gate da questo punto di vista, ma insomma no, nel senso che in questo terzo capitolo pare che si possono torturare sì. Ho visto, ti confermo che si può fare, nell'Early Access puoi farlo, quindi potrai farlo anche nel gioco finale. È una persona che lavora per Rai 4, all'epoca lavorava per Rai 4, che è andato a intervistarlo, io l'avevo accompagnato perché avevo letto i libri, lui l'ha detto proprio apertamente, dicendo per ora il mercato ti indirizza a fare libri di questo tipo. Sì, e sì, ha detto, no, una roba che a me mi ha lasciato. Se io volessi scrivere adesso Dragonlance, che è una serie, cioè, un po' più luminosa, tra virgolette, che io da ragazzino, da adolescente ho adorato, potrei farlo, ma partirei già sapendo che avrei un mercato più piccolo, perché ora la gente vuole vedere le spadate in pancia, le gole tagliate, in quel genere. Vabbè, sì, sì, ma c'è sta, infatti, è vero, sono d'accordo con te. Questo è il momento, il trend è un po' questo, insomma. Sì, sul fantasy, decisamente. Magari sì, neanche soltanto sul fantasy, perché comunque poi dopo, sai, sono cominciato a uscire, ecco, c'è il Trono di Spade, oppure è uscito Vikings, no? Se vai a vedere comunque anche quello, poi alla fine è tutto basato sulla violenza, sulla truculenza, ecco, diciamo così, no? Quindi... vi vorrei dire che in realtà anche in Zelda potete torturare, nel senso che ci sono delle categorie di personaggi che in realtà con cui potete interagire esattamente come interagite con gli oggetti. Ora io non vi dirò, perché non voglio partecipare a questa gara al massacro, però diciamo ci sono dei personaggi con cui voi spesso avrete a che fare, che potrete attaccare ai lanciafiamme, ai razzi, a lanciarli nello spazio. Se girate su internet è pieno di video in cui viene spiegato come... Ma non reputi anomalo questo eccesso di libertà da parte di Nintendo nei confronti di una sua filosofia? Non hanno cambiato. Allora, io nelle poche interviste che rilasciano i creativi di Nintendo, perché penso che Nintendo sia tipo il bunker, tipo, è presente nei romanzi cyberpunk le Zaibatsu a direzione familiare, le megacorporazioni con il vincolo di segreto, vincolo di sangue. Esatto, una roba del genere. Nelle poche interviste che rilasciano, diciamo che hanno iniziato ad aprirsi alle idee dei giochi occidentali, però alla maniera di Nintendo. Zelda è stato il primo esempio in questa cosa con Breath of the Wild, cioè abbracciare la filosofia dell'open world ma a modo loro. Quindi hai questo mondo abbastanza favolistico nell'aspetto, nelle caratteristiche dei suoi abitanti, dove però hanno applicato le meccaniche degli open world occidentali, cercando però di mantenersi fedeli a se stessi. L'esempio che hanno fatto è che sta citato nel libro Chiedilo a Iwata, che erano le lettere che scriveva la buon'anima di Satoru Iwata prima di morire ai giornali. Lui racconta un evento che secondo me è abbastanza emblematico, che loro volevano capire come funzionavano gli sparatutto a squadre occidentali, perché volevano farne uno loro, perché andavano bene tipo colotti. Shigeru Miyamoto decide di fare una prova collegandosi con un Xbox a una stanza di Call of Duty e di fare qualche partita. Gioca con questi ragazzini per un'oretta, dopodiché prende le cuffie, le toglie, le sbatte sul tavolo e dice: noi questa cosa non la faremo mai. Perché? Aveva sentito questi che si insultavano tra di loro: mi scopo tua madre, ti sparo al cane, eccetera eccetera. Queste cose per Nintendo vengono considerate inaccettabili, ma non perché siano bigotti, perché poi in realtà, se vedete all'interno di Zelda stesso, questi ultimi due, c'è una sessualizzazione di alcuni tipi di personaggi maschili, femminili, animali antropomorfi. Che è abbastanza evidente, non sono bigotti da questo punto di vista, ma neanche sulla violenza, perché negli intermezzi in cui si vedono la guerra passata con Ganon c'è gente allegramente squartata. Il loro problema è che Nintendo percepisce se stessa non come un'azienda di alta tecnologia che deve vendere un prodotto per adulti, percepisce se stessa come l'azienda che deve fare prodotti di intrattenimento, non dico giocattoli, perché non è, credo, quello. Vabbè, sì, sembra abbastanza chiaro. E il fatto che loro non spingano molto sull'hardware, ma spingano molto sui giochi, sull'esperienza del giocatore, ti porta a credere questa cosa. Quindi loro però diciamo che il cambiamento un po' nel mondo giapponese comincia a esserci, perché se tu inserisci il sesso in Final Fantasy, cioè, capito? Nel senso... Allora, questa cosa l'ho letta pure io riguardo a Final Fantasy VI, però se faccio io uno sforzo di memoria, ma io sono un vecchio di merda, ti valgo poco, le scene di sesso stavano pure in Final Fantasy IV, cioè il tuo personaggio in Final Fantasy IV. Vabbè, però è diverso. Tromba. In Final Fantasy VI scopano. Sì. È diverso perché... quelli erano giochi bucciacciosi, sì, esatto, invece qui è già più esplicito, no? Cioè, nel senso, non esplicito come in The Witcher, però è esplicito, cioè nel senso comunque capisci che c'è, comunque, anzi, ci sono pure scene, vedi, tra virgolette, di nudità, inquadrando, no? Ora nel video di gameplay, quello è diventato tipo il sogno erotico dei giocatori maschi, Pruna, ci hanno fatto proprio le fanfiction a tema erotico. Vabbè, tu sai che io non commento, perché sennò dovrei dire cose brutte. Io te ne dico, insomma, io ti riporto quello che sì, la informo. Come per esempio l'altro personaggio che è diventato il sogno erotico però più che altro delle giocatrici donne è il principe Sidon, che è un uomo pesce, una specie di Aquaman, però ma lì perché c'è la metà, il dente luminoso, c'ha 21 di carisma, eh. Cioè, ma lì c'è la metafora uomo pesce, capito? Vabbè, dai. I giapponesi non so se abbiano questo tipo di competenze. ma lascia fare. Vabbè, in definitiva, ragazzi, ecco, parliamo di in definitiva. In definitiva, tagliamo corto anche perché poi la gente sarà un per cazzo. Allora, no, scherzi a parte, probabilmente io vedo. È un ictus, c'hai avuto un ictus. Sì, no, stavo pensando, come faccio a non farmi crocefiggere dicendo questa cosa? No, di quello che devi dire. Allora, se venissero con una pistola qua dietro e mi dicessero, Puccio, scegli Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ti direi Breath of the Wild, perché è vero che diciamo, meccaniche diverse ma simili, idee, è che Tears of the Kingdom è molto più grande, perché oltre ad avere la mappa di Hyrule c'è tutto il sottosuolo e le isole galleggianti nel cielo, è molto più grande da un punto di vista proprio degli spazi, però è enormemente più dispersivo. Adesso io Breath of the Wild è vero che l'ho fatto 6 anni fa, probabilmente ero più giovane, è quello che vi pare, però io Breath of the Wild l'ho fatto al 100%, ho trovato tutti i segreti, mi sono fatto tutti i templi, ho preso tutte le armature, me lo sono proprio spremuto completamente. Che palle. Invece no, io non sono mai riuscito ad annoiarmi giocando a quel gioco. Invece Tears of the Kingdom, a un certo punto ho detto vabbè, mo mi focalizzo, faccio quello che devo fare e lo finisco, perché c'è talmente tanta più roba che puoi fare in tanti modi diversi che alla fine ti perdi. Certo. Ed è il problema degli open world al cubo, perché hai 3 mappe, c'hai gli inferi, il sottosuolo, c'è il paradiso e l'inferno, c'hai tutto quello che puoi fare, però è troppo. Cioè, c'è troppa roba che puoi fare, molta della quale la fai per il gusto di farla, non perché abbia un'utilità pratica alla fine. Cioè, ci sono quest complicatissime per prendere armature che secondo me non servono a un cazzo, detto candidamente. Oppure, cioè, ci sono oggetti tipo ritrovi la maschera di Majora, quella che era, insomma, l'elemento portante del gioco per Nintendo 64, che per prenderla devi fare un combattimento che è al limite delle possibilità umane, o devi barare, perché puoi barare anche in quello. Ma è roba assolutamente, come posso dire, masturbatoria per certi versi, fine a se stessa. E l'altra cosa che io ho notato, ma a quanto pare un'opinione comune, è che almeno fino a un certo punto sto gioco ha deciso che deve applicare la filosofia di stavo per dire di Dark Souls, ma vabbè, è un po' cioè muori tantissimo, muori tanto all'inizio, soprattutto se provi a spostarti in zone sbagliate, cosa che in Breath of the Wild non succedeva. Breath of the Wild morivi di meno, cioè avevi più il gusto per l'esplorazione, qua se sbagli zona schiatti senza possibilità di tiro salvezza, e sta cosa l'ho trovata francamente un po' più frustrante. C'ha dei problemi tecnici dovuti al fatto che è una console nata vecchia 7 anni fa, figurati ora, ma quello che hanno tirato fuori da quella console con questo gioco dimostra che Nintendo c'ha un team di ricerca e sviluppo che semplicemente è composto da esseri non umani. Vabbè, conoscono l'hardware a menadito e hanno spremuto come in realtà Naughty Dog faceva con PlayStation 4, poi sì. Fondamentalmente avevano accesso a informazioni privilegiate, quindi. Sì, ma poi magari ci hanno avuto proprio il tempo di sperimentazione, soldi di produzione, sai, tutta una serie di cose che ti permettono poi di investire anche parte del tuo tempo solo all'ottimizzazione, quindi sì. Che magari altre software house questo lusso magari a volte non se lo possono permettere, ecco, diciamo così. Ti dirò, c'ha dei problemi in alcuni punti dove non parliamo di frame rate, che è quello su Switch, cazzo, guarda, di frame rate. Ci sono proprio zone che magari sono un po' riempitivo, che devi attraversare per andare da un punto all'altro, non sono molto importanti, che secondo me non sono state fatte con la stessa cura che stava in altri giochi, però magari sono io che le ho viste così, però insomma, leggendo un po' di altri commenti in giro, sembra un'opinione abbastanza bene, dai, quindi vabbè, comunque tu lo consigli, cioè se da parte assolutamente sì, cioè tu, uno se dovrebbe comprare la Switch per questo, quello prima. Sì, no, comprare uno Switch per questi, per Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ma tipo adesso. Io poi, ripeto, non faccio testo perché per vari motivi in casa di Switch è finita che ce ne abbiamo 3. Ce l'hanno uno i miei figli, una mia moglie per Animal Crossing e c'è la mia che serve a giocare a Zelda e a Hollow Knight. E saltuariamente a qualche Super Mario. Adesso siamo in trepida attesa di sapere che uscirà dopo Switch e in che direzione sta andando. Switch 2. Non è detto che abbia quel nome, molto probabilmente sarà retrocompatibile con Switch, però non si sa. Allora, Francesco Di Muro dice, alla fine, vabbè. Sì, cioè alla fine ci è toccato di parlare di Zelda, è incredibile, ma è vero, ma sono cose che sono cose che nella vita prima o poi tocca fare, sono come pagare le tasse, tutto sommato, cioè tutti mi dicono, ma tu di Zelda non ne parlate mai, ecco qua, abbiamo parlato di Zelda. Abbiamo parlato. Puccio ci ha giocato, lo conosce in maniera approfondita, quindi l'ha sviscerato anche abbastanza bene, spero. Non abbiamo curato tanto l'aspetto narrativo, perché magari è proprio... No, perché qualsiasi cosa vi dico... È uno spoiler, esatto. Cioè, tolta la parte iniziale, quella che tutti potete vedere nel trailer, da quel momento tutto quello che succede è un pezzo importante della trama. Tra l'altro, uno, tra virgolette, dei difetti che ti porta all'open world è che rischi di vedere le cose, i ricordi, i flashback in maniera non lineare. Meno male che alla fine dalla tua tavoletta i pezzi vengono messi in ordine, e quindi una volta che li hai raccolti tutti te li puoi vedere nell'ordine giusto, a vederti tutta la cinematica. Non sai, c'è da parlare di una bambina in un canale che parla di videogioco, vabbè, sta parlando di mia figlia Francesco. Ah, ok, va bene. Va bene, allora ragazzi, intanto vi ricordo che se volete potete tranquillamente contribuire a Runtime Radio, ragazzi, quindi insomma basta andare su runtimeradio.it e cercare anche io, il pulsante anche io, e lì potete trovare tranquillamente le modalità per poter contribuire, donare e sostenere comunque il nostro progetto. Ribadisco che ringrazio tutti coloro che in questo periodo di tempo hanno veramente sostenuto alla grande Runtime Radio. Potete anche scannerizzare questo QR code se volete, insomma andate direttamente sul nostro PayPal e dire, che ne so, ti do 50 euro. No, beh, scherzo ragazzi, 50 euro non lo fate, no, mai nella vita. Non lo fate mai nella vita, anche 100, sì, esatto. Detto questo, invece, io vi ricordo che prima di salutare Puccio, insomma, e rimandarci magari a un'altra puntata che presto faremo, che domani sera, vabbè, dai, diciamolo, dobbiamo parlare pure di Street Fighter 6, che l'altro giorno hai mandato la mia chiacchierata. Esatto. Esatto. Allora, ragazzi, Street Fighter 6 ne parleremo, perché se lo merita tantissimo, tanto. Se lo merita, io infatti siamo tutti curiosi un po' di capire. Ho guardicchiato qualcosa, poi vabbè, ne parleremo. Adesso dobbiamo solo capire quando, ma penso andiamo verso settembre, perché mo adesso per qualche tempo. Non ci chiedete di Baldur's Gate 3, ci servono 5-6 mesi. Esatto, no, 5-6 mesi magari no, però insomma un po' di tempo sì. Comunque ribadisco, domani sera sul canale di Pixel Deb, insieme a lei farò questa live dove parleremo dei nostri top 10 videogiochi della nostra vita, e mercoledì invece faremo un'intervista a un autore italiano di un videogame, e domani finalmente faremo il lancio di questa intervista. Lo faremo sempre sul nostro canale di dietrologia videoludica, però lo faremo sempre insieme a Deborah, che ha ricevuto la chiave e ha potuto giocare insomma il gioco, e quindi ne parleremo in maniera più accurata. Detto questo, io ringrazio Puccio, mi raccomando, la prossima volta metti le luci RGB che illuminano la stanza. No, ma guarda, bastano quelle del mio PC probabilmente illuminare tutta la stanza. Lo so, però poi sgrana con la cosa, la webcam sgrana tutto. Bene, grazie Puccio, ci vediamo la prossima puntata, vi ricordo domani sera su Pixel Deb, dopodomani sera su DVL. Vi ricordo che questa puntata poi nei prossimi giorni uscirà anche, soprattutto, sul feed di Ludico Forum come podcast. E detto questo, ragazzi, statemi bene. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.